personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Ci sono storie immortali, storie che non vengono intaccate dal tempo, storie che rimangono appassionanti, coinvolgenti, anche se magari le scopriamo a distanza di centinaia di anni da quando sono accadute. E succede quando trattiamo vicende che interessano la natura profonda dei sentimenti umani, vicende che parlano di uomini, di donne nei quali noi possiamo ancora immedesimarci, di sentimenti forti, contrastanti. Oggi parleremo di amore, di speranza, di determinazione, ma anche di invidia, l'invidia più terribile, l'invidia che sfocia nella voglia di fare del male al prossimo. Oggi parleremo di disperazione, di vendetta, ma anche di astuzia. C'è tutto questo oggi e c'è anche qualcosa di più. Oggi il nostro protagonista è Edmond Dantès, meglio conosciuto come il Conte di Montecristo. Edmond è il personaggio, il protagonista di un'avventura avvincente, ricca di colpi di scena, di suspense. Oggi ci potrebbero fare una serie TV. La sua è una vita fuori dal comune, con un grandissimo, enorme colpo d'ala avvenuto dopo più di un decennio passato a subire le conseguenze di tradimenti e di complotti, conseguenze che gli hanno letteralmente rovinato, distrutto la vita, ma che sono state il presupposto a una terribile vendetta. Era un giovane tra i 18 e i 20 anni, alto, slanciato, con begli occhi neri e capelli d'ebano. Aveva in tutta la persona l'aspetto calmo e determinato, tipico degli uomini abituati dall'infanzia a lottare contro il pericolo. Edmond Dantès è un giovane di belle speranze, la vita gli sorride, tutto sembra concorrere alla riuscita di una carriera brillante, di una vita piena in ogni aspetto, però lui non sa ancora che c'è tanta invidia nel mondo, c'è qualcuno che sta per ordire una trama terribile ai suoi danni, sta per materializzarsi un incubo, lo attendono anni bui e lui imparerà che la vendetta è un piatto che veramente va gustato freddo. 24 febbraio 1815, la nave mercantile Faraona attracca al porto di Marsiglia. Tutti sono in festa per il suo ritorno e poi però i presenti si accorgono di un particolare. La nave sta attraccando con la bandiera a mezz'asta e questo vuol dire che durante la navigazione è successo qualcosa di terribile. E dalla nave scende Edmond Dantès che racconta l'accaduto. Il capitano del Faraon, Leclerc, è morto durante il viaggio per un attacco di febbre. Per fortuna lui, essendo il comandante in seconda, si è preso la responsabilità della nave e ha portato tutti in salvo fino a Marsiglia. Il nostro protagonista ha solo 19 anni e si è guadagnato la fiducia del suo capitano grazie al suo talento, alla sua determinazione, perché è un giovane sveglio e pieno di iniziativa ed è sinceramente addolorato per la morte del suo capitano, che era anche un suo amico. E Leclerc, prima di morire, lo ha nominato nuovo capitano e suo successore. C'è qualcuno però che non era altrettanto dispiaciuto per la morte di Leclerc. Si tratta di un altro membro dell'equipaggio, lo scrivano, il barone Danglars. Cominciamo a segnarci i nomi, questo va segnato. Sì, perché Danglars aspirava da sempre a ottenere il comando della nave e quindi è rimasto malissimo quando ha capito che la nave sarebbe stata riportata a Marsiglia dal giovane e ai tante Dantès. Edmond Dantès sembra andare incontro a un momento di grande successo, è il comandante del Faraon, si è appena ricongiunto con la sua fidanzata Mercedes, che lo ama moltissimo, è un amore vero, giovane, sincero, e l'affetto tra questi due ragazzi suscita le invidie di Fernand Mondego. Altro nome da segnare in rosso. Fernand Mondego è il cugino di Mercedes e ha sempre nutrito un interesse particolare per la ragazza, quindi non riesce a sopportare che Edmond, un francese, sposi sua cugina, una ragazza catalana che dovrebbe stare con un catalano, un uomo come lui in pratica. E i due giovani comunque non hanno capito questo astio nei loro confronti, loro si stanno godendo semplicemente il loro amore. c'è un ultimo risvolto che interessa la vita del nostro protagonista. Lui ha portato a termine il suo compito con successo ed è riuscito a guadagnarsi una discreta fortuna, e questo gli consente di aiutare il padre, che era un vecchio e disturbato dalle avide pretese del vicino di casa, il sarto Gaspar Carderus. Altro nome da segnare, Carderus è un uomo coinvolto in affari loschi, furti, una specie di strozzino che naturalmente non vede di buon occhio le fortune dei Dantes e vorrebbe appropriarsene. Lo sappiamo tutti, avere successo nella vita porta spesso grossi problemi, soprattutto di invidie. Nel caso di Edmond avranno veramente dei risvolti allucinanti, devastanti, da incubo. Eh sì, perché i tre grandi rivali si incontrano per caso in una serata in osteria e a un certo punto cominciano a parlare di Dantes e ne derivano discussioni che diventano ambigue, insulti ai danni del lignaro Edmond. E proprio in questa serata i tre, Danglars, Mondego e Carderus, discutono di come tutti e tre trarrebbero enormi vantaggi dalla distruzione di questo giovane. Forse magari ucciderlo è troppo, Mercedes ne morirebbe di dolore e non è quello che Mondego vuole, visto che la vuole sposare. Ci deve essere un altro modo per eliminarlo, un modo per incastrarlo per sempre. Ehi, un altro con la faccia scura. Ah, zitto. Speravi che non tornasse quel porco di Dantes. T'è andata male. La sua morte ti avrebbe facilitato la strada per arrivare a tua cugina Mercedes. Non ti permettere neanche di nominarla. Sta buono. Siediti, sentite me. Invece, se non ci fosse lui, adesso sarei il comandante di quella nave. Sembra proprio che tutti e tre ce l'abbiamo con quell'uomo. Allora mi domando, qual è il destino di un bonapartista di questi tempi in Francia? Cosa, Dantes? È un bonapartista? Nel viaggio di ritorno, la nostra nave si è fermata all'Elba. Cameriere, penna, carta e inchiostro. Le riporto subito, signore. È la notte della cospirazione. Questa è una scena tratta dal film Il Conte di Montecristo del 75 di David Gein. È un'invidia mischiata a una dose di vino, è una miscela mortale. E poi c'è un particolare che conosce solo Danglars, è un particolare che suggerisce ai tre un modo per incastrare il mondo, perché la Pharaon, dopo la morte del capitano, si è fermata per alcune ore all'isola d'Elba. Si parlava di affari segreti del capitano Leclerc. Edmond ha scambiato due parole addirittura con Napoleone Buonaparte e adesso è in possesso di una lettera misteriosa. Non dimentichiamoci che siamo nel 1815, quando Napoleone viene mandato in esilio all'Elba la prima volta. Pochi giorni dopo fuggirà, tenterà la riconquista del trono di Francia. Tutto questo, insomma, fa pensare che Dantes potrebbe essere stato un cospiratore, un traditore del re, un bonapartista. Non è così. Edmond stava eseguendo degli ordini, non sa neanche quale sia il contenuto della lettera, però sarebbe facile denunciarlo, è un'idea per toglierlo di mezzo senza commettere un omicidio, per metterlo ai margini della vita sociale. Carderus è l'unico che si oppone per un attimo, perché dice che Edmond in fondo è un bravo ragazzo, e allora lo fanno bere di più. Lo vogliono convincere che quello che stanno escogitando è solo un gioco tra ubriachi per divertirsi. Insomma, Danglars scrive una lettera anonima con la mano sinistra per non fare capire la sua scrittura. Il signor procuratore del re è avvertito da parte di un amico del trono e della religione che il nominato Edmond Dantes, secondo della nave Pharaon, arrivata questa mattina da Smirne, dopo aver toccato Napoli e Portoferraio, ha ricevuto da Murat una lettera per l'usurpatore e dall'usurpatore una lettera per il comitato bonapartista di Parigi. Si avrà la prova del suo delitto arrestandolo, perché la lettera sarà trovata o su di lui o in casa del padre o nella sua cabina a bordo del Pharaon. È fatta, la lettera è scritta, Dantes è denunciato in forma anonima come agente bonapartista. In un primo momento la lettera viene accartocciata, gettata in un angolo, perché in fondo si tratta di uno scherzo. Poi i compari escono dal locale, qualcuno rimane indietro, è Fernand Mondego che raccoglie la lettera che denuncia Edmond al procuratore del re. Sarà lui a inviarla e a portare a termine la cospirazione. Intanto Edmond e Mercedes sono decisi a sposarsi, tutti sanno che i due sono innamorati, però non si aspettano un matrimonio così improvviso. I due ragazzi preparano un pranzo festoso, si lasciano trasportare dalla gioia, tutto sembra andare per il meglio, il momento è propizio, annunciano il matrimonio durante il pranzo con grande sorpresa di tutti gli invitati. Si sposeranno quello stesso pomeriggio, tra un'ora e mezza. Tutti gioiscono tranne Mondego, Danglars e Caderousse. Danglars, avvicinandosi a Fernand, aveva gettato sull'innamorato deluso uno sguardo profondo. Fernand camminava dietro i futuri sposi, completamente dimenticato da Mercedes, che nell'incantevole egoismo giovanile dell'amore aveva occhi solo per il suo Edmond. Fernand era pallido, poi rosso per vampate improvvise, che sparivano per fare posto a un pallore ogni volta crescente. Di tanto in tanto guardava dalle parti di Marsiglia, e allora un tremito nervoso involontario gli faceva rabbrividire le membra. Sembrava attendere, o almeno presagire, qualche grande avvenimento. Gli sposi sono al settimo cielo, ma è la calma prima della tempesta. Sono a un passo da raggiungere la felicità. Manca un'ora alla celebrazione del matrimonio. Tra gli invitati si presenta un commissario con quattro soldati. Hanno un mandato d'arresto, sono qui per lui, per Edmond Dantès, lo sposo. Non vogliono sentire ragioni, lo trascinano via dalla festa. Mercedes grida, piange, è disperata. Edmond, in realtà, dopo lo sbigottimento iniziale, è tranquillo, non oppone resistenza, si lascia portare via, risponde con educazione, è talmente sicuro di non avere nulla da nascondere, di essere innocente, da ostentare, anzi da mostrare una sincera serenità. È sicuro che c'è stato un equivoco, risolverà tutto in poche ore, tornerà dalla sua amata e il matrimonio verrà celebrato. Non ha neanche capito perché è stato arrestato, è sicuro di non aver fatto nulla di male. Purtroppo però la situazione si rivelerà ben diversa, si rivelerà drammatica. Dal pranzo di nozze, anzi dal mancato pranzo di nozze del nostro protagonista, ci spostiamo a un'altra festa di fidanzamento molto sontuosa. Qua non ci sono i marinai, ci sono i membri dell'alta società francese. Il pranzo di fidanzamento del sostituto procuratore del re, Gérard de Villefort. De Villefort sta per sposarsi con René di Saint-Méran, che è una ragazza che appartiene all'alta società vicina al re. È un periodo difficile per la politica francese, ci sono equilibri instabili, il re Luigi XVIII di Borbone è tornato al potere, però i bonapartisti stanno resistendo nell'ombra per cercare di salvare il loro generale dall'isola d'Elba. La famiglia di René ovviamente vede i bonapartisti come la minaccia da estirpare, la feccia peggiore. De Villefort ha abbracciato questa politica, è necessario anche perché sta per entrare a far parte anche lui della famiglia come marito di René. L'imperatore, re dell'isola d'Elba, dopo essere stato padrone di gran parte del mondo, dopo aver sentito gridare «Viva Napoleone!» da 120 milioni di sudditi in 10 lingue diverse, là veniva trattato come un uomo definitivamente perduto per la Francia e per il trono. I magistrati ne mettevano in rilievo le cantonate in politica, i militari parlavano di Mosca e di Lipsia, le donne del divorzio con Giuseppina. A questo mondo realista, gioioso e trionfante non per la caduta dell'uomo, ma per l'annientamento del sovrano, sembrava di uscire da un sogno penoso e che la vita ricominciasse. In questo clima è proprio a lui, a De Villefort, che arriva la denuncia ai danni di Edmond. De Villefort si precipita a interrogare Dantès, che è accusato di aver cospirato come bonapartista durante la sosta della nave all'isola d'Elba, e in realtà Dantès in un primo momento fa un'ottima impressione al procuratore. Non sembra mentire, è tranquillo e deciso, non gli interessa la politica, ha ben altro per la testa, non conosce il contenuto della misteriosa lettera ricevuta, sa solo di doverla consegnare a un dato indirizzo, insomma è solo un tramite, stava semplicemente eseguendo gli ordini del suo capitano. Tu sei Edmond Dantès? Sì, signor procuratore. Non mi sembri il tipo del cospiratore. Cospiratore? Signore, ho altro per la testa che cospirare. Domani devo sposarmi. Dimmi sinceramente, sei mai stato al servizio di Bonaparte? Bonaparte? Di Napoleone Bonaparte, signore. Io non ho mai... Eppure a noi risulta che sei un simpatizzante di Bonaparte. Simpatizzante? Signor De Villefort, non mi interesso di politica. Amo il mio mare. Amo la mia fidanzata, amo mio padre, solo questo mi interessa. Devil Force sta per rilasciarlo e poi succede una cosa terribile, perché lui vede la lettera incriminata e indirizzata a un certo Noirtier. Il procuratore impallidisce, suda freddo. Noirtier è suo padre. Quella lettera contiene le prove che il padre del procuratore è un buonapartista convinto, implicato nella cospirazione per far fuggire Napoleone. E qui lui fa due ragionamenti: non può permettersi che si sappia che lui è imparentato con un uomo del genere, la sua vita sarebbe rovinata, il suo matrimonio andrebbe all'aria, insomma non ha altra scelta. Brucia la lettera e prende questa decisione. Viene sacrificata la vita di Edmond Dantès, che era l'unico che conosceva il destinatario della missiva, e lui lo fa in cambio della sua salvezza. Il procuratore mente, conforta il prigioniero, gli dice che sarà portato al palazzo di giustizia e poi rilasciato, è una formalità, ma durante il tragitto Edmond capisce che qualcosa non sta andando in questo verso, perché viene condotto al porto, viene messo su un'imbarcazione che parte, lo porta chissà dove. È l'inizio della sua fine. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Edmond Dantès, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Conte di Montecristo, ma ancora non siamo arrivati lì. Siamo arrivati a un ragazzo molto fortunato in quel momento, che sta per sposarsi, che ha una carriera spalancata davanti a sé e che viene invece bloccato da tre loschi figuri che per vari motivi hanno interesse a farlo sparire. Lo accusano di bonapartismo e la sfortuna si accanisce, perché il sostituto procuratore del re, De Villefort, ha capito che Dantès è innocente, ma decide di sacrificarlo per salvare la sua famiglia dallo scandalo, perché il vero bonapartista era proprio il padre del sostituto procuratore. Insomma, meglio gettare Dantès in pasto agli squali piuttosto che dire la verità e far sapere a tutti che è il padre del procuratore ad avere cospirato per il ritorno di Napoleone. Aiuto! Ehi! Zitto! Hai capito? Dove sono? Ditemi dove sono! Dove sei? Sei ospite allo Chateau d'If. Ma non è possibile. Dovevo essere portato al Palazzo di Giustizia. È un ordine del signor De Villefort. Chiamate per piacere il signor De Villefort. È meglio che chiamo il re in persona o preferisci la regina? Il signor De Villefort è mio amico e deve sapere che sono qui. Aspetta! Avvisate almeno la mia fidanzata. Che cosa ho fatto? Perché mi hanno chiuso qua dentro? Edmond viene gettato nelle segrete del castello di If, nel golfo di Marsiglia, una tremenda prigione sperduta su un'isola solitaria, è una tomba galleggiante, perché quelli che sono rinchiusi lì raramente ne escono vivi e sani di mente. La punizione peggiore, il disagio più profondo non è causato dagli stenti, dallo sporco, dai topi, dal freddo, ma è causato dalla disperazione, perché lì i detenuti sono ognuno in una singola, se così si può dire, e la disperazione prende Edmond. Perché mi hanno rinchiuso qui, si chiede, dov'è Mercedes, dov'è mio padre, cosa hanno detto a loro di me, cosa ho fatto per essere cancellato dal mondo in questo modo. Lui è totalmente ignaro, non ha mai sospettato di nulla, è convinto che sia tutto un malinteso, ma lui ormai è un recluso, nessuno dà ascolto alla sua voce, viene deriso dai suoi carcerieri, non ha potere, è un fantasma rinchiuso tra le pareti di una minuscola cella nelle segrete del castello. Dantès passò attraverso tutti i gradi di infelicità che subiscono i prigionieri dimenticati in una cella. Un giorno supplicò il carceriere di chiedere per lui un compagno, chiunque fosse, anche l'abate pazzo di cui aveva sentito parlare. Dantès aveva esaurito l'ambito delle risorse umane. Allora si rivolse a Dio. Pregò, non con fervore, ma con rabbia. Edmond passa anni da solo in questa situazione allucinante, le sue speranze si spengono di giorno in giorno, la sua disperazione attraversa diverse fasi. Inizialmente non si rassegna, cerca di trovare una soluzione, invoca un processo, perché sa che se qualcuno lo ascoltasse potrebbe chiarire qualsiasi tipo di equivoco. Nessuno gli dà ascolto, allora prova a parlare con l'unico che potrebbe aiutarlo, Dio. Prega giorno e notte, e poi dopo la preghiera sopraggiunge la rabbia, l'odio, diventa un bestemmiatore. E lui è un bravo ragazzo, ma non è istruito, non ha cultura, non sa cosa fare, non sa dove sbattere la testa. L'unico pensiero diventa morire. Potrebbe impiccarsi alle sbarre della cella, ma preferisce lasciarsi andare e morire di fame. Sì, sono 4 giorni che lui ha deciso di lasciarsi morire di fame, sono anni che è in cella. A un certo punto sente un raschiare sordo sotto il pavimento, dura delle ore, lo scuote dal suo torpore, il suono di una nuova speranza, perché di lì a poco riesce a parlare con un altro prigioniero. C'è qualcuno che sta scavando lentamente ma incessantemente. Dantès è il prigioniero numero 34, l'altro è il numero 27. Edmond decide di riprendere a mangiare, non vuole più morire, vuole incontrare questo compagno di sventure. Alla fine il numero 27 riesce a entrare nella cella di Dantès scostando una mattonella del pavimento. Il prigioniero numero 27 si chiama Faria, i carcerieri lo chiamano l'abate pazzo, l'abate Faria, e lo chiamano l'abate pazzo perché farnetica tutto il tempo di un misterioso tesoro. Nessuno gli crede, ma lui non è pazzo per niente. Sono l'abate Faria, nato in Italia, diventato prete in Italia, e sono chiuso qua dentro dal 1810, 15 anni. E tutto questo sempre per ragioni politiche, solo che tu sei qui perché dicevano che eri con Bonaparte, mentre io perché ero contro. E questo cos'è? Beh, tutti quei segni significano che adesso sono le 12:15. Un orologio? Un orologio, un calendario, una carta astronomica. Vieni, ho qualcosa da mostrarti ancora. L'abate è un religioso, ha una cultura immensa, ha quasi 70 anni eppure non si è mai perso d'animo. Ha sempre continuato a tentare di evadere con strumenti che si è fabbricato da solo in cella, e poi ha scritto un trattato filosofico per mantenere la mente allenata, a volte ha scritto anche col suo sangue. Insomma, Dantès e Faria diventano amici. Dantès ha un nuovo mentore. Tu sei il figlio della mia prigionia, gli dice l'abate. E qui avviene il suo grande cambiamento, il cambiamento di Edmond. L'abate gli insegna tutto il suo sapere, storia, filosofia, astronomia, scavano assieme, e l'astuto anziano aiuta il giovane a capire il vero motivo per cui è stato rinchiuso lì. Perché lo spinge al ragionamento più ovvio: chi avrebbe tratto vantaggio dal vederti sparire? E Dantès ci pensa, c'è un certo Danglars che ha avuto una discussione con lui durante la navigazione, e poi c'è un certo Fernand Mondego, cugino della sua amata, che ha sempre avuto troppo interesse verso di lei, e Dantès ricorda di averli visti confabulare la sera prima del suo arresto insieme al vicino di casa, quel Caderousse, che ha anche lui delle mire sul suo patrimonio in questo caso. E poi c'è quel sostituto procuratore De Villefort, che è giovane e ambizioso. L'abate Faria è a conoscenza del fatto che Noirtier è suo padre, e adesso tutto torna. Dantès conosce i nomi di quelli che l'hanno incastrato. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Grazie all'intelligenza dell'abate Faria, anche Edmond Dantès ha capito la verità. L'abate ha instillato in lui il sentimento più forte, quello della vendetta, e Edmond ripete come un mantra i nomi dei suoi nemici. Ha trovato un nuovo scopo per vivere. Insieme all'abate continua a scavare, vuole aiutarlo. Sono anni che Faria tenta di evadere, ma a causa di un errore di calcolo non è arrivato al mare con le sue gallerie, ma alla cella del giovane. Insomma, il destino li ha fatti incontrare. Poi nel 1829 l'abate si sente male, ha un ictus, sta per morire, e non c'è niente che Edmond possa fare per aiutarlo, può solo ascoltare attentamente le sue ultime parole. Questa enorme fortuna è rimasta nascosta a Montecristo per 4 secoli e mezzo ed è nostra, capisci, figliolo? Volevo andare a trovare questo tesoro insieme, Adesso è tuo e dovrai andarlo a trovare da solo e dovrai fare grandi opere di bene con esso. Spendi questa fortuna che Dio ha voluto conservare per te in maniera buona e saggia. Edmond, devi riuscire ad evadere e trovarlo. A che può servirmi un tesoro? Il mio vero tesoro è lei. E io ho ancora tanto bisogno di lei. Si tratta del ricchissimo tesoro della famiglia Spada, un tesoro che risale al 400. Edmond si fida dell'abate Faria come di un padre, sa che non gli sta mentendo, ma non è il momento di pensare al tesoro perché il suo unico compagno di prigionia muore. Edmond cade nello sconforto più nero e deve nascondersi nella sua cella mentre i becchini chiudono il corpo del prigioniero in un sacco. In quel momento decide di agire. Torna nel cunicolo che hanno scavato e si infila nel sacco al posto del cadavere dell'abate. I becchini lo portano fuori dalle prigioni, fuori dal castello, lo gettano in mare. Edmond riesce a salvarsi, si libera dal sacco, riemerge in superficie, è libero, va alla deriva, viene ripescato da una piccola imbarcazione. I suoi salvatori sono dei contrabbandieri italiani, tra questi c'è uno che si chiama Jacopo, diventerà uno dei suoi servitori più fedeli. È il 28 febbraio 1829. Dantès è stato rinchiuso a 19 anni, esce che ne ha 33, ha passato 14 anni di prigionia. Tu parla, chi sei? Dici come ti chiami? Da dove vieni almeno? Nessuna nave è affondata, non c'è stata tempesta. Ehi, sparano quando fugge qualcuno. Già. Tu? Jacopo, su questa barca ognuno si deve fare gli affari suoi. I contrabbandieri capiscono che quello che hanno davanti non è uno qualunque, perché adesso Edmond è un uomo colto, astuto, metodico, ha una missione da portare a termine. Intanto scopre che il padre è morto di stenti e che tutti i suoi nemici hanno avuto successo. Caderousse gestisce un albergo e sarà lui stesso poi a rivelare particolari importanti a Dantès, che si presenterà da lui travestito, sotto mentite spoglie. Danglars è milionario, il più grande banchiere di Parigi, ed è barone. Mondego ha sposato Mercedes, hanno avuto un figlio Albert, è un generale, è una specie di eroe per i francesi, e anche Del Villefort non se la passa male. Insomma, è il momento di pianificare la vendetta, che lo sappiamo è un piatto che va gustato freddo. Edmond si prende il suo tempo. Sull'isola di Montecristo ha trovato l'immenso tesoro che gli aveva indicato l'abate Faria, e lì a Montecristo ha fondato il suo impero. L'appuntamento era all'1:15, vero? Esatto, barone Danglars. Che uomo quello! Possiede il più splendido e ricco castello di tutto quanto il territorio francese. Senza parlare come spende. Come riesca a spendere tanti soldi? È un mistero. Dicono che nel suo castello mantenga un intero harem. E c'è chi dice che abbia una flotta di navi pirata che batte tutto il Mediterraneo. Si vuol circondare di esotismo. E nessuno ha mai saputo da dove viene. Ed ora questo... quello che chiamano il re del mistero ha scelto la mia banca. Cosa c'è? Il conte di Montecristo. Bene, fallo entrare. È il momento. Edmond Dantès, che si era nascosto dietro diverse false identità durante gli anni per tornare nella società per investigare sui suoi nemici, adesso assume la sua identità definitiva. È il conte di Montecristo, che vive nella sua reggia in un'atmosfera da mille e una notte. E così il conte di Montecristo diventa una figura di spicco della società francese. Incontra Alberti, il figlio di Mercedes e di Mondego. Il ragazzo lo adora, è affascinato come tutti dal conte, dalla sua cultura, dal suo sguardo impenetrabile. Incontra Mercedes, forse lei è l'unica che lo riconosce, ma fa finta di niente. Il conte conosce anche Valentine, l'adorata figlia di De Villefort. Vedo che hai una visita importante. Questo gentiluomo non sembra né un criminale né un avvocato. Non faccia caso a mia figlia, è una ragazza molto spontanea. La prego vivamente di volerla scusare. Valentine, io ho l'onore di presentarti il conte di Montecristo. Oh, Montecristo? Oh, signore, sarò la ragazza più invidiata di Parigi. Quello che dice la gente è vero, lei è molto bello e dicono anche che è molto ricco. Ricco di esperienze, signorina, ricco di anni, ma ancor più ricco dal momento che ho iniziato ad apprezzare le bellezze di Parigi. Il conte di Montecristo si è guadagnato la fiducia, l'ammirazione di tutti e comincia a mettere in atto la sua vendetta. Intanto ha scoperto che De Villefort ha avuto un figlio illegittimo che ha tentato di uccidere, di seppellire in giardino dopo la nascita. Il figlio però è sopravvissuto, il conte lo trova, lo prende al suo servizio. È proprio lui a uccidere Caderousse, è il primo dei quattro nemici a cadere, perché Caderousse è avido, non resiste alla tentazione di entrare in casa del conte per rubare qualcosa, viene colto sul fatto e viene ucciso. Poi c'è Danglars, e grazie a certe macchinazioni il conte riesce a distruggere il suo impero finanziario. Il banchiere è costretto a fuggire, la famiglia De Villefort è distrutta dallo scandalo del figlio illegittimo e Montecristo non ha pietà, porta alla morte anche la moglie e il figlio di De Villefort, e lui li trova senza vita, avvelenati, e impazzisce dal dolore. È una strage da tragedia shakespeariana. E anche Fernand Mondego non sfugge alla vendetta del conte. Infangare il nome del generale è semplice, perché lui non è l'eroe che tutti credono. È arrivato al successo grazie a sotterfugi, a tradimenti, ha addirittura macchinato per eliminare un certo Ali Pascià, ha venduto la figlia, la moglie di questo suo rivale militare, diciamo, come schiave. La figlia però, Aide, è stata comprata e salvata proprio dal conte di Montecristo durante uno dei suoi viaggi a Costantinopoli. La ragazza è innamoratissima del conte e fa da testimone per smascherare Mondego. Mondego è costretto a fuggire. Il figlio Albert non può credere che il conte abbia rovinato così la sua famiglia, non sa il motivo per cui lo sta facendo. Lo sfida a duello. Mercedes allora finalmente si rivela, l'ha riconosciuto, sa che il conte di Montecristo è Edmond Dantès, prega il suo amato di un tempo perché risparmi almeno suo figlio. Allena per uccidere mio figlio? Lui mi ha sfidato, signora. Lui l'ha sfidato, ma è stato lei che l'ha provocato. Il generale Mondego è suo padre. La mia faccenda riguarda un tenente che conobbi tempo fa. Di che cosa parla? Vendetta, signora. Per che cosa? Per aver sposato la donna che tu amavi? In questo Fernando non c'entra. Sono stata io. Tu non c'eri più. Non potevo più sopportare la mia solitudine. Lo sposai perché tutti mi dissero che eri morto allo Chateau d'If pochi giorni dopo il tuo arresto. Hai mai sognato tuo padre che muore di fame? Hai mai sognato la tua fidanzata che sposa il tuo rivale mentre stai marcendo in fondo a un pozzo? Peggio! Ho visto colui che ho amato tanto prepararsi per assassinare mio figlio. Albert viene a conoscenza della verità. È sua madre che gli racconta tutto. Il ragazzo capisce l'opera di vendetta del conte, il duello non avviene, tutto è compiuto. Edmond Dantès però ormai è un uomo solo, non ha scopo nella vita, nella sua brama giustificabile ovviamente di vendetta ha anche travolto degli innocenti e non si dà pace per questo, decide di partire per sempre, lascia Mercedes, non si vedranno mai più, e torna a visitare lo Chateau d'If, il posto dove era stato prigioniero 14 anni, ritrova il trattato scritto dall'abate Faria, un trattato che gli dà nuova speranza. L'epigrafe recita: tu strapperai i denti al drago, tu calpesterai i leoni, così ha detto il Signore. E poi arriva anche un nuovo amore per Edmond e Aide, naturalmente, la ragazza che lui aveva salvato, quella che Mondego aveva venduto come schiava. Adesso è cambiato, nessuno gli restituirà gli anni perduti, ma perlomeno adesso può vivere in pace. Ci sono colpi d'ala vissuti improvvisamente nella vita, poi ci sono colpi d'ala meditati, architettati, sperati, colpi d'ala per i quali si è dovuto lavorare. Ecco, la vendetta di Edmond Dantès, conte di Montecristo, è stata proprio questo, un lungo colpo d'ala preparato per punire chi gli aveva distrutto la vita. Ognuno di noi può rischiare di cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala, soprattutto se è molto invidiato e quindi deve sapere difendere la sua felicità. Se volete segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.